Oggi noi sul Sole 24 Ore facciamo un censimento, diciamo, dei vari settori della giustizia che si sono occupati di questa questione e con le procure abbiamo fatto filotto, nel senso che a questo punto non c'è ramo della giustizia che non si sia occupato. La situazione, dicevo, è paradossale perché appunto la procura di Rimini, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta con ipotesi di reato di abuso d'ufficio, indaga sul fatto che la società che gestisce il servizio in quella zona continua a applicare l'IVA, mentre un altro settore dello Stato, l'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia, rispondendo a un'altra società a Venezia, quindi 200 km di distanza, hanno detto che devono continuare a applicare l'IVA. Quindi a Rimini si indaga su un comportamento che l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia a Venezia impongono alla società. Ma Certo, quindi perché quanto mai originale. questa cosa, al di là appunto delle cifre che comunque possono essere consistenti, questa vicenda è proprio esemplificativa del peggio di quanto possa accadere in Italia quando ci si intrica sul niente. Io penso che siamo l'unico paese occidentale sviluppato, ma forse anche non occidentale non sviluppato, ad aver introdotto tre metodi di tariffazione o tassazione del servizio rifiuti, ma aspettiamo il 1° gennaio quando debutterà appunto un quarto metodo di tariffazione del servizio rifiuti. La TARES, La tanto per TARES, identificarla subito, così lo sanno i nostri ascoltatori. e nessuno di questi metodi è riuscito finora a mettere una parola definitiva. Insomma, qui non si tratta di mandare, che so io, dei computer su Marte per vedere. Si tratta di fare una cosa abbastanza normale e semplice, qual è la tariffazione del servizio rifiuti, una cosa che tutti i paesi fanno senza problemi. Noi ci siamo intricati su tre diversi prelievi, di cui appunto uno giudicato poi incostituzionale. Tra l'altro, in questa fiera dei paradossi c'è anche il fatto che noi abbiamo, siccome non ci facciamo mancare nulla, una prima TIA e una seconda TIA che funzionano sostanzialmente allo stesso modo. La prima TIA è stata giudicata dalla Corte Costituzionale un tributo e quindi l'applicazione dell'IVA sarebbe illegittima anche se il governo si disinteressa del problema. Sulla seconda TIA, che funziona uguale, nessuno ha detto niente, per cui l'IVA è tendenzialmente legittima. Siamo nella fiera dell'assurdo.